al scupio, giochi le spette tra di noi. Tutti a San Michele al pavo, da pisagno un spavo. Giochi sa madre al scupio, giochi le spette tra di noi. Tutti a San Michele al pavo, da pisagno un spavo. Scupio, gli occhi per svedere di mo'.